fuori. Stata. Giulia, salutami la segretaria. Sì, dottore, lì, cosa detto? A salutarmi la segretaria. Non ci ho pensato, che se no te la salutavo, non ce l'ho visto adesso. Mi dire, tanti saluti dal Corriere di Martolini, è venuto ieri. È chiaro qua, Santiago 4. Magava, sentite che io sto guidando, sono uscito di dentro. Cavagava, qui cavagava, Papà, mamma non si avvicina, aumenta, lievita. Aumenta la vita, aumenta! Come lievita. Capo! Avvero, Natali, avvero! Sì. Pagava. Vippi. Che un po' così pagava sì. Oh Luca, ma quando un baracchino non ha stazionare a quanto deve salire lo smister? Ma c'entra quello, troppo elevato in base da dentro si regola, io sale a quasi 9:30. Ma cappa, no, il mio è a 9:30, cioè attacco il Midland. Non è fare niente, voi già fa. Non è mai nuda, non è un problema quello. Io me lo regolato a 9:30. Invece l'altro, ne mi davo 4:30, sale a 9. Il trimmer è già a palla. Ma non me la futti nuda, le mani così come in testa da chi. Non è male la pena aggiustato. Cappa. No, perché molti dicono, no, deve essere intorno al 9, non deve scendere, oppure a 7, Santiago 7 deve essere così. Ma, secondo quanti batte che c'è il baracchino, quando c'è tutto di prima, si trova una piccola e sono si deve pulire anche, non so io, che dica. Poi attiviamo una sugarare, una frequenza, da lì. Mi ha parlato stamattina con una persona, un altro canale là, sempre 10, Sempre canale 10, gamba. Già lo sai tu, capisci al volo, l'apparecchio famoso, vai, capisci ma al volo. Signore. Gamba, sei d'accordo, non c'è problema. Ma non c'è il casino lì. Secondo cosa è, si può fare? Che se si può fare? Problema, si può fare, non è problema. Kappa. Sicuramente, adesso vediamo. Forse mi dovrebbero chiamare dalla prossima settimana. Che hanno finito già in 4, 5, forse 10 persone hanno già finito. Devo riprendere il posto di loro, di uno di loro. A lavorare. Sì, là dove ho fatto la domanda. Siamo freddo, paro, freddo. Cosa? Fare un passo. Prega. E c'è qualcuno che sta giocando. Ma non ti nulla, c'è un telefono in chiuso. Sento nessuno lì. Perché fastidio mi dà? Sto prendendo il sacco e... ho detto nulla. Sì, vabbè. Bene. Carta per caso, gliela porti? Cosa? Ma Cassa. Dottor Cassa, dottor Cassa. Adesso non mi viene in mente. Ehi, guarda, vicequestore. No, dove... Dove? Lì, nella questura stava. No, negativo. C'è l'appartamento. No, mi sembra che è lui, no. Però è così. Brava! Massaggio a livello chiuso, cava cava. Quanto orso va, sì? Sì, signore. Quanti chi ha qua? Poi c'è la brittella. No, Sant'Orsola. Cava. Via, via. Un bel di gente, un bel di gente l'ha porto io, la bombola. Sì, insomma, è la porca quella che ti apre in piedizoma. Te ne scende anche la bombola in terra, se ne scende. E altro che noi. Il giorno che la porca quella amica mia, gli dico apri in perizoma, così almeno questa se ne scende la bombola in terra. Che... Ti pare le mattole le nuove. Che cazzo, sento qualche colpettino, sento. E se c'è qualcuno nel canale vicino. E sapi, 2 minuti, eh? Il tuo padre che al 5 c'è Giovanni. Giovannino l'originale. Che fa, ci sei? Cagare. A tu? Figlia. E tuo padre? E cucato, eh. Dicono che c'è Giovanni l'originale, suo compaesano. E dove è qua, in questo canale? Al 5. Sono a strappo. E adesso addormentato, sono sveglio la buia, mamma mia. Allora, cos'è vicino a Sassari? C'è la pedanietta. Basta, risblattermi, arrivava. Niente. Vedi. Ma sai, dura il terreno a faccia, maledetto. Il treno, treno, Natalia, dove sei arrivato adesso? Natalia. A Sant'Orso, ma sono fermo. Ecco, hai il suo treno, beh. Una volta pure a noi ci succedeva quando passavamo da lì, una rottura di scatole. Sì, a quest'ora passa, mi va, fanculo. Casino che... È vero! Venga! Tanto è chiaro! No, molta recessione sta. Non è stato il baracchino, è l'antenna che conta tanto. Anch'io, in confronto a qualcuno, Gianni c'ha più recessione di me. No, cappa. No, perché mi hai detto l'altra volta che ti entravo lo stesso col PL. Cioè col PL staccato, eravamo un pochino distanti. No, non è col PL staccato. Praticamente quando io commuto, un altro baracchino c'è il commutatore di antenna. Praticamente c'è il cavo attaccato. E secondo dove sei mi arrivati senza antenna. Ah, cappa. Ma perché io, a meno che non sia in questo circondario, se stacco l'antenna non andrà più qua. Adesso per esempio tu come arrivi da casa tua senza antenna? Non lo so, prova, vabbè, vai. Ola, mi ascolti? No, non ce la fai arrivare. Devo aumentare di un altro po'. E io ce la faccio. Adesso più basso la tali tu. Anche più basso di Antonio, so. Che la gava? Quanto ti arriva lui, Natalino, a confronto di me? Luca. Tu sei 9,5, lui è 9, oscillante. Ah, cappa. No, a me è quasi a fondo scala, eh. Caragara. Sicuramente mi starà passando nella busi, o non so, loco. No, sono Sant'Orsola. Che cazzo? Mi stai toccando appena appena il filo. Questa è una cosa del genere, lì sarò. E che poi per il barattino dell'anno 48, più di quant'altro non sale. Gaba gaba, quella via lunga lunga mi porta per la busi, so. Cazzo. Quando mi passo nella busi, comincia a toccare il 30. E te credo, mi adesso sono sbloccato nella busi e poi busi. Troppo. Forse è chiaro qua, eh. E adesso è salita lì appena appena. Adesso mentre sale a 9.30. Mentre che sali, eh. Al semaforo sono adesso, eh. Ecco qua, passato il semaforo, in questo momento. Si chiama semaforo. Luca, vieni a fischiare le pecore. Lo passo, Natali. Prendi i bruvi, Sai dove ti passo io, Antoine? Lì al chilometro. Polarsi. Polarsi? No, è Polarsi, no. E ti batti un gruppo, vai. Un chilometro sì, perché sono in mezzo io. E quindi mi sento tutti e due. Cappa, ancora c'è a fondo scala adesso. Prova a fare la prova a vedere se riesco a passarti. Parla tu, parla Luca. Oh! Natalia, Luca di buo, Aisha, Luca di buo, Luca di buo. Oh! Ah, non crepo, non crepo, Natalia, non crepo. Non passa. Anche tu non passi, Natalia, figurati, sei in macchina. Beh, Natalia, com'è? Ti abbiamo ucciso. Passa anche lui, Antu, è in macchina. Beh, chi è che... No, vabbè, tra me e te, chi è che è passato? Ma fatto un virale, non mi so, conosco che macchina con l'esito. Chi è che è passato, Natali? Luca! E Luca sentiva anche a me. E lui non passava? No, assolutamente, perché adesso sono in mezzo. Cappa, però disturbavo al massimo. No, quando parla pianista, come fai a disturbarlo? Che fa una mano vagito. E cosa entra? Un grembo. Voglio. No, la macchina. Adesso metteremo anche se stantera la tali, figurati. Vabbè, sono vicino, adesso sono quasi vicino a casa di Gianni. Beh, ti credo allora. Ti passo dalla tua parte, vedi. Ho voluto fare la prova, te l'ho detto, ti passo lì alla Budibuti. Lì al chilometro, dai. Ma io proprio se tu pensi ti butto l'acqua calda. Via Gianni. Dai, così mi faccio la doccia, adesso mi fermo e divento la portante, caro. Ma dal dottore devi andare. Come? Dal dottoressa devi andare. No, a casa devo andare, smesso che ci darà la travaglia. Non pensavo dovessi passare dalla dottoressa. Via, se mi devo preparare e andare. Sì, Gianni. Ciao Antoine, ciao, mi stavo ascoltando, ma... Era non dormivo sveglia, quindi non sono entrato, sennò poi mi addormento. Sono morato oggi. Allora. Ma sei andato lo stesso. Sì, sì. La dottoressa devi andare adesso. E io. Ma buona. Però fa il certificato per io. Ah, cappa. Ma stasera vai. Sì, sì. Ma bella questa dottoressa. E visto che nonno è. E allora lascia perdere. E non è una brava dottoressa. Anche se vecchia è brava, però. Sì, non è così vecchia, no? Va bene, è una piscina, no? Non è una piscina, ma non è macuiccia. E quanto ci avrà? 54 anni. Non gliel'ho chiesto, no? Perché anche sarebbe una scortesia chiederlo a una donna quanti anni ha. E anche perché ti potrebbe dire cosa gliene frega. Anche. E allora non va bene, no, assolutamente. Credo che era giovane. No, è vecchiotta, Mazzina, piccoletta. La mia giovra, 45 anni, va, in gamba, È in gamba, quanto ho saputo io dalle parti di Cagliari, però vive qua da un bel pezzo. Sì, allora è buona giada, va. No, c'è in gamba, ti tiene bene, ma la sorte. Domani si sta giocando, devo andare a dare un bel biglia, chi faccio di bene sono più lunghi. Dammi l'indirizzo, Luca. Indirizzo, via Succis, mi sembra che sia, via Pigliac, non so che via è di preciso. Comunque lì, dove c'è, o ti posso dire, quel palazzo, dove c'è il palazzo di Pistolusti, lì, quel palazzo lì. Ah, cappa, ma un po' seducente. Ma non è brutta, non è una, cioè è in gamma la donna. C'è una, te l'ho detto, 45, forse anche 48. Guarda, già se li porta bene. Una volta c'era, quando eravamo alla Croce Blu con Pistolusti, eccetera, eccetera, c'era la campana che quando suonava il telefono ci avvisava anche fuori, no? E non funzionava, è salito quinto, corso la scala, sentiamo, andiamo a vedere, quinto secco, quando l'avevamo morto, mi era duro, si è seccato proprio, non rispondeva, era diventato duro duro dal colpo che ha preso, un cazzo mi avevano caricato in ambulanza, via all'ospedale d'urgenza, che se si è ripresa, poi con colpo a testa è uscita. Siamo visti, ma mi ha detto che doveva andare. Ti se manca Edo, guai. Oh, ma non si pure che l'abbiamo visto, Ma non si pure. Perché ho visto... Ne ho visto, dai. Ne ho visto una signora con il marito. Sicuramente uno di quelli era tua suocera e tuo suocero. Probabilmente. Doveva andare perché lui ci tiene un bel a queste cose. Addirittura gli arrivano ancora dalla polizia di Stato tutti gli opuscoli eccetera eccetera, lui legge sempre super informato in tutto. Dunque di conti non ce n'era? No? Vabbè, che cosa, chi è venuto di gente di persone importanti? Allora è venuto Pisano, poi c'era capo mobile, non so chi chiama. Se capo la polizia, Manganelli si chiama. Manganelli, sì. Nome è tutta una poesia. Capito, Manganelli. Sei come il suo cognome, oi. Sicuramente sarà cognome d'arte. Ma te lo ricordi la volta che è venuta la cena di Padova, già, che hanno manganellato il dottor Torricelli? No, io mi ricordo quando hanno manganellato Dario Fo al Rex, che non volevano fare entrare la polizia, cioè ho filmato contro la polizia di Stato, hanno praticamente sfondato i portoni, c'erano polizia e carabinieri insieme, vigili urbani, hanno sfondato la porta e c'era praticamente una scala dietro la porta tutta piena di gente per fare forza, per rampare tutti intero. Sti che ci sono caduti dalle bicicletta a colpi di mancarello e via. E beh, resistenza alla forza pubblica. Vabbè, comunque anche a Dario Fo. E dice che l'hanno pure sodomizzato. Comunque è bella, vabbè, non siamo entrati dentro, è bella, bella, bella, cazzo, già 30 milioni di euro hanno speso per fare quella roba lì, l'hanno fatta in 12.000 giorni. Quanto? 12.000 mi sembra, può essere. Non lo so, sono 365 all'anno, lui. 120 giorni è impossibile. 3, 6, no, ho fatto 1200 giorni, già. Come resta bisogna fottere di lì, comunque è fatta l'anno. Ma l'ho vista la Furi, che già è bella. Già è bella, ma c'è un po' di confusione, a quanto pare dice che c'è anche la stradale lì, tutto quanto lì. Ma si conferma, c'è anche la stradale adesso. Perché la polizia ferroviaria? Non lo so già. Non lo so. KK, vabbè. Io stavo a prepararmi, dai, che sennò poi sono l'ultimo e mi fanno come l'altra volta. Ho chiesto di entrare per le ricette e poi sono entrato la dottoressa e me la guardo tutti male. Ah, ciao, dottore, ci sentiamo stasera, dai. Magari più tardi, boh, vediamo un po' se faccio in fretta. Ciao, ciao. Oh, già, ciao, ci sentiamo. Ciao, già, ciao, Natali. Alla gava. Ufa! Oh, Iulia. Lugale, chi sei? Ci sono, gara. C'è freddo però, Freddo. Ma prendi via la tuffetta. Lì tu vieni, tra l'abitamento la casa ci sono una, solo una mucca in camera, che arriva un briba. Cappa. Ma lo sai che dicono che... E beh, che se ne usciava? Abbassato. Scassando i coglioni. Hola. Dove ha questa radio? Hola. Bene va Luca. Luca. Eia. Bene va adesso, sì. Scappa. Oh, mi ha rotto le spalle. Dammi. Mamma. Aspetta un attimo che cambio il microfono, là. Aspetta un attimo di bianco, poi metto dicendo una cosa. Poi nel frattempo cambio il microfono. portante troppo attento. È Luca. Luca, mi stavo leggendo una cosa. No, a vedere se aveva visto cose belle stamattina. Sì, capo, me lo stavo raccontando. Io sono entrato praticamente 5 minuti fa. No, Gabriele. Vabbè, dai, vado a mangiare, ci sentiamo più tardi, a tu. E papo, cucato. Capo, cucato, Bene, mi senti col microfono normale. Una bomba. Ma già va bene. Perché si è scaricata la batteria? Va bene, tu. Per città è più che sufficiente. Non ci sono problemi. Mancata. E adesso a mangiare. Poi ti ho riconosciuto subito. Adesso stava la E te che sta portando per repotente. Ma devi dargli un auguri che non riesce mai a uscire peggio di tutti. Hai fatto un baracchino di quelli di 20 anni fa, mi sa di lì sia. Il microfono è buono, ma pesca così bene, non mi sono mai ascoltato io. Va bene, allora ci sentiamo al limite. L'arco della giornata se coincide, se no a stanotte, non so là. Va bene, ci sentiamo, ciao, solta una barba. Non fa capo, dai, ci sentiamo. Va bene, comunque tutto a rosso, va bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao.